quinto capitolo del trattato di Pesachim alla Mishnah Tet, la Mishnah numero 9, dove avevamo già iniziato a descrivere la funzione stessa del Korban Pesach così come avveniva all'interno del Bet HaMikdash, i tre gruppi. Il primo gruppo riempiva il Bet HaMikdash e si faceva il Korban Pesach, poi usciva, entrava il secondo, nel durante i Levim cantavano il Hallel e tutti gli altri dettagli che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Ora la Mishnah dice, eravamo arrivati a spiegare diversi momenti dell'offerta del Korban stesso, del sacrificio stesso, e la Mishnah ora spiega in che maniera si preparava dopo la Shechita, e dopo che si è preso il sangue che sarà poi trasportato per essere poi gettata una piccola parte spruzzata verso il Mizbeach, che sono queste tre delle quattro avodot assolutamente indispensabili perché il Korban sia valido, di cui una, la Shechita, può essere fatta anche non da un Kohen, ma le altre tre solamente da un Kohen. Per arrivare alla quarta parte di queste quattro avodot, che sarebbe il portare sul Mizbeach alcuni grassi che del Korban Pesach sono presi e sono sacrificati sull'altare sul Mizbeach, mentre tutto il resto del Korban per intero viene riportato a casa e arrostito e consumato appunto dopo la cena del Seder. Allora, come si arriva a spellare e pulire l'animale, l'agnello, per poi fare la haktara, e cioè il sacrificare gli emurim, e cioè i grassi che vanno sacrificati. Vediamo come descrive la Mishnah. Keitzad, in quale maniera tolin umafshitin, in quale maniera si fa appendere l'animale e lo si spella. Perché chiaramente, se siete mai stati in un mattatoio, l'animale viene appeso e si fa lo spellamento. Come si faceva nel Bet HaMikdash? Sì, a testa in giù, però dove si appendeva? Allora la Mishnah descrive a noi che vi erano un kaliot, dei ganci, shel barzel, di metallo, di acciaio, di metallo, hayukvuin, che erano fissati questi ganci, baketalim u baamudim, che erano fissati su due luoghi. Un luogo era proprio sulle mura del Bet HaMikdash all'interno, della Azara, di questa parte del Bet HaMikdash. E inoltre Ba'amudim, esistevano dei pali, delle piccole colonne, piccole nel senso non molto alte, delle colonne di legno, e sui lati di queste colonne in alto c'erano dei ganci, sui quali si poteva, sia sui ganci delle mura che sui ganci delle colonne, dei pali, si poteva appendere, erano predisposti per appendere il cadavere dell'animale e spellarlo e pulirlo. C'era nella Azara un luogo che si chiama Beit HaMitbachaim, che letteralmente significa il mattatoio, e questo era la parte nord. Quindi entrando nel Bet HaMikdash, a destra, c'era questa zona qui, dove c'erano degli anelli fissati per terra, dove probabilmente per gli animali più grandi, le bestie più grandi, venivano fissate con l'anello per poter effettuare la Shechita, e c'erano questi pali, e c'erano dei tavoli sui quali poi si poteva aprire e pulire l'interiora della bestia. Quindi questi erano i ganci. Ora, il problema, diciamo la sfida, che c'era la vigilia di Pesach nel momento in cui si faceva il Korban Pesach, cos'era la sfida? La sfida era che, come abbiamo descritto l'altra volta, era pieno di gente. Allora significa non c'era un volume normale, quotidiano, di quello che erano le korbanot, quindi i ganci ce n'erano a sufficienza. Quando era per il Korban Pesach, i ganci non necessariamente erano a sufficienza. Allora come si faceva? E la Mishnah subito lo spiega. Bechol mi, ed ognuno, she'en lo makom, che non trova posto, litlot, per appendere il korban, uleafshit, e spellarlo, Allora mettevano a disposizione per questa occasione maklot dakim chalakim, dei bastoni, cioè dei pezzi, dei come dire, delle aste, delle asticelle di legno fini, non molto grandi, non di un diametro molto grande, e chalakim, lisci, umaniach al ketefo ve al ketef chavero. Cosa faceva? Prende due aste e vengono due persone insieme e posano le aste sulle proprie spalle e sulle aste tra le due persone mettono le gambe posteriori della bestia e mentre la bestia è appesa dalle aste la persona fa il lavoro di spellare come se fosse appesa a un gancio. Probabilmente un po' più difficile perché muovi le mani, si muovono anche le spalle, eccetera. Però due persone, così uno aiuta l'altro. Tre persone praticamente, due reggevano. Perché tre? Non so, forse tre. Uno spellava. Forse, oppure forse due, e, diciamo messo in modo che le spalle reggono e tu lavori. Può darsi così. Ok? Un mafshit, e si spellava in questa maniera. Ora vediamo che c'è un'opinione, che è un'opinione di solo uno dei Tanaim, e vedremo che la Halakha non seguirà questa opinione, però cercheremo di capire la logica dell'opinione del Tanà. Cosa dice? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, nel caso in cui Arba'a Asar, Shechaliyot Bashabbat, se dovesse capitare che il giorno 14, e cioè la vigilia di Pesach, il giorno in cui si fa il Korban Pesach, 14 di Nisan. Se questo stesso giorno, e cioè la vigilia di Pesach, capitasse di Shabbat, allora, in quel caso, secondo appunto Rabbi Eliezer, maniach yado al ketef chavero, yad chavero al ktefo, vetoleo mafshit. Forse qui servono davvero tre persone. Cioè lui mette la propria mano sulla spalla del prossimo, il prossimo mette la sua mano sulla spalla sua e poi si fa il lavoro di si appende l'animale come se le due braccia fossero le due aste. Ok? Cioè non si usano le aste di Shabbat, bensì si usano le proprie braccia per fare la stessa operazione. Perché Rabbi Eliezer dice questo? Secondo Rabbi Eliezer, se noi non fossimo all'interno del Beit HaMikdash, allora sarebbe vietato prendere queste aste per una questione di mukze, per un divieto dei Rabbanan, un divieto dei maestri, non è un divieto della Torah. Quello che, se vi ricordate, si chiama nel linguaggio dei Chachamim Shevut. Shevut sarebbe un decreto oppure un divieto dei Rabbanan, dei maestri di Shabbat, che può essere legato a diversi elementi, oppure perché è simile a una melachà, o per altri motivi. In questo caso si rientrerebbe nel concetto di mukze. Allora la domanda è, visto che noi abbiamo studiato che in generale esiste una regola, en shevut bamikdash, non esiste lo shevut nel Beit HaMikdash, cioè quando i Chachamim hanno vietato determinate cose durante Shabbat nel nostro comportamento, non hanno applicato il divieto a quello che fanno i Kohanim, o comunque quello che bisogna fare all'interno del Beit HaMikdash. E ci possono essere varie motivazioni, visto che quello che avviene nel Beit HaMikdash avviene per una mitzvah della Torah, allora non ha senso venire e vietarlo midrabanan. Ok? Ovviamente in questo caso non è una mitzvah della Torah usare le aste, è una convenzione per facilitare la situazione. Di conseguenza i Chachamim, cioè la maggioranza dei Chachamim, non Rabbi Eliezer, dicono anche in questo caso en shevut bamikdash, non si applica il divieto della banan di Shabbat nel Beit HaMikdash, e quindi se a casa non potresti usare le aste perché c'è il divieto dei maestri, però nel Beit HaMikdash non si applica il divieto. Rabbi Eliezer invece è dell'opinione che Quando si dice non c'è Shevut Bamikdash, e cioè non si applica il divieto rabbinico di Shabbat nel Beit HaMikdash, c'è una logica, significa un divieto che si applica a qualcosa che è necessario fare nel Beit HaMikdash, allora il divieto non è in vigore. Se noi, come dicevo prima, c'è qualcosa nel Beit HaMikdash che va fatto perché i Kohanim lo devono fare per mitzvah, e quindi è una cosa tzricha, che è necessaria, allora non si applica il Shevut, non possiamo vietarlo se serve per il Beit HaMikdash, e i Chachamim lì non hanno applicato il divieto. Ma Shevut she'eina tzricha, una cosa che sarebbe vietata bidrabanan, che però non è assolutamente necessaria, in altre parole ci si può organizzare anche senza, come suggeriva Rabbi Eliezer con le braccia, eccetera, allora lì esiste, vige il Shevut, todarabah. Lì vige sempre lo Shevut, vige sempre il divieto secondo Rabbi Eliezer. Una cosa simile l'abbiamo vista anche in passato, questa differenza tra lo Shevut che è necessario e lo Shevut che non è necessario. Quindi si usa se è di sabato sulle braccia, eccetera, perché ci si può organizzare in modo diverso dal Aspetta. Questa sarebbe l'opinione di Rabbi Eliezer, che bisognerebbe fare così, bisognerebbe usare le braccia, trovare un'altra convenzione, non usare le aste, perché è possibile fare in altra maniera. I Chachamim dicono non siamo d'accordo. In questo caso applichiamo comunque il concetto di En Shevut Bamikdash e si usano le aste anche di Shabbat. La Halakha segue la maggioranza che sono gli altri Chachamim. Allora, quindi quel passaggio prima invece del farlo le braccia era per introdurre queste due opinioni. Però quindi alla fine abbiamo citato l'opinione di Rabbi Eliezer. Era la citazione avevo recepito all'inizio come di se è sabato non si usano le braccia eccetera e non ma chi l'ha detto? Poi ecco. Vedi il testo Rabbi Eliezer Omer è tutto preceduto dalle parole Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dice, quando la Mishnah dice che un maestro specifico dice, significa che gli altri non sono d'accordo, perché se fossero tutti d'accordo, questo bisogna ricordare bene, se fossero tutti d'accordo, la halakha sarebbe stata indicata in maniera anonima, sì, senza nome. Preciserebbe il nome. Precisando il nome, significa che c'è una discussione, anche se non si esplicita sempre l'altra parte, perché qui è implicito, è già chiaro cosa dicono gli altri. Dicono di no, non siamo d'accordo. E la prossima Mishnah, la Mishnah dice, continua a descrivere quello che si fa dopo che si appende la bestia in quella maniera che abbiamo detto sui ganci e così via. Allora a quel punto, Kera'o, dopo che si toglie, si toglie la pelle, allora Kera'o lo si apre, significa si apre l'intestino, la parte, il corpo, diciamo, della bestia. Vehozi e Murav. Allora si apre e si tolgono le interiore e si puliscono. E la Mishnah dice: Vehozi e Murav tirava fuori le parti grasse che poi andranno portate sul Misbeach. Queste parti grasse che dovevano essere portate sul Misbeach, Netanoba magis, li metteva in un magis. Cosa è un magis? Un magis è semplicemente una ciotola, un tipo di contenitore, una ciotola, e venivano poi vehiktiran al gabei hamisbeach, venivano poi portati sopra al misbeach. Chi li portava sopra al misbeach? Tassativamente un kohen, perché questa è la quarta delle quattro avodot necessarie perché un korban sia valido, e cioè il portare quella parte che, secondo che tipo di korban è, va portato sul Misbeach, in questo caso gli Emurim, queste parti grasse, ma solo il Kohen lo può fare. Perché bisogna precisare questo? Bisogna precisare questo perché noi abbiamo detto che la prima delle quattro cose, cioè la Shechita Ksheira Bezar, un Zar, cioè uno straniero che non è Kohen, un Levi o un Israel, può fare la Shechita. Ma qui la Mishnah ci sta insegnando, i commentatori spiegano, in realtà è più implicito che esplicito chiaramente, che lo spellare e la pulizia dell'interiora può anche essere fatta da un zar, da un non Kohen, anche perché non è una delle quattro cose, queste operazioni qui non fanno parte delle quattro cose essenziali. Delle quattro cose essenziali, solo la prima, la Shechita, può essere fatta da un altro. Ma le varie fasi preparative, le varie fasi preparative come lo spellare e la pulizia dell'interiore, eccetera, e la preparazione delle parti grasse finché arrivano nella ciotola, possono essere effettuate dal Zar, cioè dal non Kohen. Sì? Una curiosità, però. Quando il Kohen effettuava questo tipo di procedura, no? Accendeva la menorah oppure qualcosa, doveva recitare qualche formula? Tipo... No, non credo. Ora, questa è l'ultima fase del Korban Pesach nel Bet HaMikdash, è quello di portare gli Eimurim, cioè le parti grasse, sul Mizbeach. Dopo che sono state portate le Eimurim, se tu sei lì, hai portato il tuo Korban e hai fatto, sei assicurato che i tuoi Eimurim del tuo Korban sono stati portati sul Mizbeach e tutto è a posto così come deve essere, a quel punto cosa fai? Prendi la bestia e la riporti a casa e la metti ad arrostire. E fai Arvit, quello che devi fare, Hallel, inizi a fare il Seder, e poi alla fine del Seder tiri fuori il Korban Pesach, e ognuno un Kazait, e si consuma tutto il Korban Pesach, così come è la Mitzvah, eccetera, eccetera. Cosa succede se però quel giorno della vigilia di Pesach in cui si fa il Korban Pesach è Shabbat? Dopo che sono state portate gli Eimurim, le parti grasse, sul Mizbeach, tu sei bloccato perché devi aspettare che esce Shabbat per trasportare la bestia dal Beit HaMikdash a casa, a Yerushalayim. Ok? Allora cosa si faceva? Adesso la Mishnah descrive come avveniva durante Shabbat questa cosa. La Mishnah dice così. Se fosse, qui è implicito di nuovo, non è esplicito, se fosse Shabbat, se Erev Pesach, se la vigilia di Pesach venisse di Shabbat, allora il primo gruppo che ha fatto il suo Korban Pesach, Yatzetà, usciva fuori dal Beit HaMikdash, dalla Azara, dal luogo interno del Beit HaMikdash, usciva Kat Rishona, il primo gruppo, ve Yashvala Beharabait, si metteva seduta, letteralmente, ve Yashvala Beharabait, all'interno del monte del Tempio, dove siamo ancora circondati dalle mura del monte del Harabait, che il Kotel è una delle mura di cinta del Harabait, quindi all'interno del Kotel, per capirci, lì, fuori dal Beit HaMikdash, ma sempre all'interno del monte del Tempio, dell'Harabait, e aspettavano lì. Quando il secondo gruppo finiva il proprio Korban Pesach, anche loro uscivano dalla Azara per fare spazio al terzo gruppo. E loro dove si mettevano? Non nell'Harabait, ma nel Chayil, o Chayil. Cosa è il Chayil? Allora, nel Harabait, come era strutturata la situazione, che c'era il luogo aperto dell'Harabait, e che dopo la grande ristrutturazione del Beit HaMikdash di Erode, ci fu tutta una colonnata intorno, quindi può darsi che il primo gruppo usciva, poteva essere comunque anche sotto un tetto, sotto le colonnate intorno all'Arabait, può darsi, questa è una teoria, comunque nell'Arabait stavano. Poi dal Harabait non si accedeva direttamente entrando nella porta della Azara, cioè all'interno del Beit HaMikdash, c'era una zona, diciamo così, che non è né di qua né di là, che separava, una zona non molto grande, mi sembra che, se non sbaglio, nella Mishnah di Midot è scritto 10 amot, una zona di circa 5 metri tutto intorno al Beit HaMikdash, dove c'era tipo un recinto o un muretto, secondo le varie opinioni, o un muretto o un recinto, e in questo recinto o muretto c'erano delle aperture in corrispondenza alle porte della Azara stessa, del Beit HaMikdash stessa. Allora questa era una seconda zona che il secondo gruppo che usciva dal Azara, avendo finito il Korban Pesach, essendo ancora Shabbat, rimaneva seduto dentro il Chayil, che questa zona si chiama il Chayil. Il terzo gruppo, dice la Mishnah, Ve'ashelishit bimkoma omedet, rimaneva apposta al proprio posto, cioè all'interno dell'Asara. Ora, cosa aspettavano? Aspettavano che finisse Shabbat, che uscisse Shabbat. Quindi Hashecha, con il buio, quindi con la conclusione dello Shabbat, Yatze uscivano ognuno dal proprio luogo in cui aspettavano, Vezalu et Pischehen, e andavano a fare l'arrostire del proprio Korban Pesach. Di nuovo, normalmente se non fosse stato Shabbat, sarebbero usciti subito e avrebbero messo subito nel forno sul fuoco il Korban Pesach per iniziare l'arrostire del Korban Pesach. Visto che il Korban Pesach, quando viene di Shabbat, si respinge lo Shabbat, cioè si fa comunque il Korban Pesach, perché il Korban Pesach deve essere fatto tassativamente il giorno 14 del mese di Nisan, e quindi su questo non ci sono variazioni sul Korban stesso, ma l'arrostire del Korban non respinge Shabbat, perché si può fare quando esce Shabbat. E comunque si mangia il 15 il Korban Pesach, non il 14. E di conseguenza bisogna attendere che esca Shabbat e solo dopo andare a casa a fare l'arrostimento del Korban. Ora c'è uno dei maestri, Rabbi Akiva Eger, uno dei grandi geni di circa 2 secoli fa, un po' di più, che scrive in questa Mishnah c'è un linguaggio che se noi facciamo attenzione è molto esatto. Perché guardate bene il testo della Mishnah. C'è scritto che il primo gruppo usciva e si metteva nel Harabait. Che termine usa la Mishnah? Dice Yashva, si mettevano seduti. E poi dice la stessa cosa per il Chel, non ripete la parola Yashva, però dice la seconda nel Chel, come dire anche loro si mettevano seduti nel Chel. Invece per il terzo gruppo, cosa dice la Mishnah? Omedet, rimanevano in piedi. In teoria Omedet significa rimanevano, erano posti là. Però, visto che prima c'è la contrapposizione, che prima usa il termine seduti e qui usa il termine in piedi, Rabbi Akiva Eger dice è molto esatto, perché sappiamo la halakha che è vietato stare seduti all'interno dell'Asara. Qual è l'unica eccezione chi può stare seduto all'interno dell'Asara, se vi ricordate? Il Kohen, no? No, il Kohen, neanche il Kohen Gadol. No. Ah, il Giudice. No? I giudici devono stare fuori, seduti sì, ma fuori dall'Asara. Cioè il Bet Din HaGadol, quello che era attaccato al Bet HaMikdash, era fatto appositamente, strutturato in una maniera che il luogo in cui stavano seduti i giudici era fuori dal muro dell'Asara. Proprio per questo divieto qui. Piero, ti ricordi? Allora i maestri dicono en yeshiva ba'azara, non è possibile stare seduti nell'azara, ela le malchei bet David bilvad, solamente i re e solamente i re della casa di Davide, perché c'erano a volte anche re che non erano della casa di Davide, solo i re della casa di Davide hanno il permesso di stare seduti nel Bet HaMikdash. Scusa, questo sì? Il terzo gruppo rimane in piedi, eravamo nella sequenza... Nell'attesa del fine sabato, giusto? Esatto. Ok, allora concludendo qui il quinto capitolo del Masechet Pesachim, concludiamo oggi qui la lezione e prossima volta riprenderemo con il sesto capitolo, in cui si discute su altri aspetti, su vari aspetti che riguardano la differenza tra lo Shabbat e il non Shabbat, il giorno feriale, per ciò che riguarda sempre il Korban Pesach. Alcune delle cose che abbiamo viste implicitamente in queste Mishnayot che abbiamo studiato oggi e le altre volte, lì le vedremo più esplicite e più dettagliate. Todarabah a tutti quanti. Grazie.